Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla quarta puntata dedicata alla lettura del romanzo Ex Tenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata vi ho parlato della genesi dei due personaggi principali. Oggi invece parliamo della vita di un romanzo, dall'idea iniziale alla sua completa realizzazione. Per una trattazione completa vi rimando all'ottimo On Writing di Stephen King, che è una sua agile biografia dove si trovano delle considerazioni e dei consigli utilissimi per chi vuole intraprendere la carriera da scrittore. Qui riporterò solo la mia esperienza, che per quanto di una visione parziale e personale può risultare comunque interessante. Bene, partiamo dall'idea iniziale. Questo credo sia l'unico punto al quale è impossibile applicare una tecnica o una metodologia. Un'idea o ti viene o non ti viene. Però, siccome nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, come ebbe a dire il buon Lavoisier parlando di tutt'altro argomento, in particolare della conservazione di massa in fisica, almeno una cosa vi posso dire: le idee molto spesso vengono leggendo e vedendo tanti film. A parte che il farlo, in particolare leggere, visto che ci riproponiamo di diventare scrittori, è un bene in sé, perché permette di affinare lo strumento base, che è il linguaggio narrativo. Le idee non nascono dal nulla, si creano per similitudine o per differenza. Cerco di spiegarmi. Quante volte ci è capitato di leggere un libro o di vedere un film e pensare: ah, che bella idea, mi sarebbe piaciuto averla io. Oppure, che forse è pure più spesso, che idea stupida, ma perché invece non hanno fatto questo e quest'altro? Bene, quelli sono dei momenti di creatività, chiamiamola così, involontaria. La nostra mente sta apprezzando una storia o si sta ribellando a un'altra, proponendocene l'embrione di una migliore. Quelli sono ottimi momenti per prendersi un appunto, reale o semplicemente mentale, magari mettendolo via per tornarci un secondo momento. Ma l'ispirazione può arrivare da qualsiasi cosa, avere più fonti diverse per un solo romanzo. Tanto per fare un esempio, per Ex Tenebris, la suddivisione della magia oscura in confraternite, necromanti, marinieri e evocatori, è stata ispirata da un vecchio gioco di ruolo che si chiamava Dragon Quest. Invece l'idea del virus protagonista di Phoenix, poi ripubblicato da Newton Compton con il titolo di Israel, Operazione Tel Aviv, è questo virus che usa tanti computer per costruire un gigantesco laboratorio parallelo, mi è stata da SETI at Home, uno screensaver distribuito dalla NASA nel 1999, credo forse ancora sia in giro, che distribuiva tra milioni di PC i calcoli che venivano effettuati su segnali rilevati dalle antenne che captano i segnali dello spazio profondo. E usando questi PC distribuiti, quando sono accesi ma non fanno nulla, cioè appunto in screen saving, per questi calcoli. Insomma, questo per dire che l'ispirazione può veramente arrivare da qualsiasi parte e non c'è necessità che si tratti di una cosa assolutamente e totalmente originale. Molti, moltissimi romanzi raccontano in sostanza storie molto simili, se non addirittura identiche, cambiando nomi, ambientazione, epoca storica e così via. Quello che è opportuno fare è appuntare le idee e vagliare le possibili varianti, anche mescolandole tra di loro. Quella che non va bene come trama principale, magari può essere usata come una sottotrama e viceversa. Ok, per oggi direi che abbiamo cominciato a trattare un argomento che per sua natura non può essere trattato in un'unica puntata. Nella prossima cerchiamo di capire come si può riuscire a trasformare un'idea o varie idee in un romanzo compiuto. E ora invece possiamo passare alla lettura del quarto capitolo del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 4. Thomas Travers venne risvegliato dal suono del telefono. Dopo aver passato la maggior parte della notte a leggere il diario, era scivolato in un sonno profondo e agitato. Abbiamo trovato Diana Blake in un edificio abbandonato, esordì Adrian Bennett. Era solo una sua impressione, o Adrian aveva un tono un po' strano. È ferita? Chiese Tom, alzandosi dal letto e barcollando fino alla cucina. Aveva bisogno di un secchio di caffè. Sembra che stia male. I medici sono molto preoccupati. Cos'ha? Tom si bloccò in mezzo alla cucina. Un brivido gelato gli percorse la schiena. Non un'altra bambina in fin di vita. Sono andato al Washington Hospital Center a farmelo dire. Per telefono non si sono sbilanciati. Perché non mi raggiungi lì? Ricordo le giornate passate nelle sale di attesa di quell'ospedale. Sfiorò Tom come una carezza gelida. Si violentò per non rispondere di no. Va bene, dammi il tempo di rendermi presentabile, rispose alla fine. Ah, prima che mi dimentichi, Nel diario di Blake si parla della casa di un certo signor Lionel, la persona che lasciò in affidamento Diana a Sylvester Blake. Se non è stata venduta, forse contiene degli indizi che ci possono essere utili. Va bene, farò controllare. Ci vediamo all'ospedale. Il monitor era gremito di grafici esitanti. L'unico che mostrava un'intensa attività era l'elettroencefalogramma. Le pupille, che si muovevano veloci sotto le palpebre, sembravano testimoniare un'intensa attività onirica e il viso era attraversato da frequenti spasmi. Un pugno sembrava stringere con forza lo stomaco di Tom mentre lo osservava. Si chinò per carezzargli una mano, rivivendo quella stessa impotenza che aveva provato per Eileen. Un dottore entrò nella stanza. «Voi siete parenti della ragazza?» chiese. «Ispettore Bennett, polizia di Washington», rispose Adrian mostrando il suo distintivo. «E lui è Thomas Travers, criminologo e mio collaboratore. L'unico parente che conosciamo della ragazza è morto questa mattina in circostanze sulle quali stiamo indagando. Cosa può dirci del suo stato di salute?» «Diana Blake è molto grave», il dottore sospirò. «Non sembra ferita», disse Tom. «Lo stato in cui versa è dovuto a quella che si può definire una forma tumorale estremamente aggressiva, ma di origine ignota». «Non capisco», Bennett scosse la testa. «Cercherò di essere più chiaro, anche se noi stessi fatichiamo a comprendere a fondo la situazione. C'è qualcosa che sta crescendo a ritmi francamente senza precedenti dentro la ragazza. Io la definisco una forma tumorale per mancanza di definizioni alternative. L'esame istologico ha rivelato una struttura cellulare del tutto anomala». «Cosa pensate di fare?» chiese Tom, spaventato dalle parole del medico. Sembrava un tragico déjà vu. «Purtroppo nulla, se non consultare tutti i maggiori esperti di forme tumorali atipiche. Ma non posso nascondervi l'estrema gravità della situazione. La ragazza sta morendo». Il dottore non aggiunse altro e si congedò. In quel momento Bennett fu chiamato al cellulare e Tom si trovò da solo di fronte alla ragazza. Il suo volto pallido e delicato rifletteva un'intensa sofferenza, nonostante i sedativi. Non poté fare a meno di ripensare a quella strana frase che aveva letto nel diario di Blake. «Fin tanto che sarà piccola, non correrà pericoli, ma quando si manifesterà il segno dovrà essere riportata su notturnia velocemente, prima che il potere oscuro la fagociti». «Cosa c'era di più oscuro di un cancro sconosciuto che ti divora quando sei ancora una bambina?» Sentì la presenza di Bennett alle sue spalle e si distrasse dai suoi pensieri cupi. «Ci sono due novità», disse l'ispettore. «L'analisi tossicologica su Sylvester Blake è negativa. Quindi il patologo esclude l'ipotesi del veleno. Il campo si restringe. L'altra qual è?» «Abbiamo individuato la casa di Lionel. Non è mai stata venduta». La casa di Lionel odorava di polvere. Ce n'era almeno un dito posato sui mobili e sugli oggetti, segno che nessuno si era preso la briga di pulirla da chissà quanto tempo. Era una villetta molto simile a quella dove avevano vissuto Sylvester Blake e la nipote Diana, che si poteva scorgere affacciandosi dalla finestra della cucina. Doveva essere rimasta sigillata per anni, ma qualcuno doveva esservi entrato più di una volta di recente. Sulla superficie di polvere, infatti, si vedevano dei segni piuttosto nitidi. Molti libri erano stati presi dagli scaffali e poi riposti. Dopo una breve ricognizione, Tom e Adrian si fermarono di fronte a un grande quadro. Questo aveva dei cardini sulla parete destra che gli permettevano di ruotare e di dare accesso a una cassaforte di discrete dimensioni. La chiave era un cassetto della scrivania di Blake e le impronte che abbiamo trovato in giro sono solo le sue, disse loro un agente. All'interno della cassaforte c'erano parecchi oggetti di fattura squisita, in oro e gioielli. Una piccola fortuna che doveva essere quella che Lionel aveva lasciato a Blake come eredità per Diana. E poi c'erano i libri. Due grandi tomi dall'aspetto massiccio e greve, rilegati di una pelle simile a quella di un serpente nero fuliggine. Avevano le pagine di una carta pesante scurita dal tempo, con sopravvergati segni mai visti, dall'aspetto mistico e maligno allo stesso tempo. Erano due, e non tre, come invece era scritto nel diario. Questo rafforzava in Tom l'ipotesi che il terzo fosse stato sulleggio di fronte a Sylvester Blake, e che fosse stato rubato. Rabbrividì e distolse lo sguardo, accorgendosi che i due libri avevano fatto lo stesso effetto ad Adrian, che si era allontanato per parlare con il poliziotto. Il libricino aveva una rilegatura meno raffinata degli altri. Sembrava artigianale e la pelle appariva scurita e screpolata. Lo prese in mano con delicatezza e ne scorse le pagine. La pergamena ingiallita scricchiolò come ossa antiche mentre lui la sfogliava. Erano tutte completamente vuote, anche in questo caso il diario di Blake era fedele. I suoi sensi si misero allerta. ma non riusciva a riconoscere la sensazione che cominciava ad avvolgerlo. Era come se risiedesse appena al di là della sua percezione, della sua capacità di comprendere. Scrutò con cura una pagina in controluce. La fitta trama della pergamena però non gli rivelò nulla, dandogli anzi la sensazione di una sottile rete che lo avvolgeva, intorpidendolo. Poi sentì una fitta dolorosa al polpastrello dell'indice. Si guardò il dito e vide spuntarvi una goccia di sangue. Un chiodino arrugginito che sporgeva appena dalla rilegatura doveva averlo bucato. Fece per portarsi il dito alla bocca, ma la goccia, quasi ne fosse attratta, cadde su una pagina della pergamena. La superficie arida della carta l'assorbì immediatamente e il sangue vi lasciò sopra un'impronta simile alla sagoma di un cristallo di ghiaccio. Tom fece appena in tempo a notare che la macchia impallidiva velocemente, fino a sparire quasi del tutto, quando la sua testa cominciò a girare. Fece per poggiare il libercolo quando qualcosa di strano si impose alla sua instabile attenzione. La prima pagina, che lui aveva accuratamente osservato prima di passare alle successive. Ora si intravedeva una scritta tracciata con un inchiostro color rubino. Un'angoscia sottile lo annebbiò. La prima per la linfa che sgorga ignara. La stanza prese a ruotare sempre più forte. Le gambe divennero deboli, il respiro affannoso, quasi l'aria fosse divenuta più densa. L'ultimo spiraglio di lucidità rivide con terrore l'espressione di Blake. Poi solo buio e nero. Tentò di chiamare Adrian, ma la voce gli morì in gola. Non si accorse neppure di cadere a terra. Il dolore fluttuò nella sua testa, compiendo lenticircoli. Aprì a fatica gli occhi, ma solo per scoprire che non riusciva a vedere nulla. Il buio era completo. Dove si trovava? I ricordi cominciarono a stellarsi nei denti. Come pezzi di un vaso rotto, si ricomposero a fatica. L'omicidio, il rituale, il libricino con le pagine ingiallite, la scritta apparsa all'improvviso. Certo, ora ricordava. Non gli sembrava che fosse passato più di qualche istante da quando si era ferito il dito e aveva avuto quello strano mancamento. Passò una mano sul terreno attorno a sé e i dubbi si moltiplicarono. Non c'era pavimento, sembrava piuttosto terra battuta. Un odore nauseante gli si intrufolò nelle narici. Non si trattava del dolcestro incenso rituale che aleggiava nella casa, era piuttosto odore di materiale in decomposizione. Tentò di alzarsi, anche se in quel luogo senza luce i concetti di alto e basso non avevano consistenza. Brancolò nel buio a braccia tese, tentando di incontrare qualcosa di solido che lo aiutasse a delimitare il vuoto che lo circondava. Dopo essere avanzata la cieca per un po', incontrò una superficie verticale che sembrava essere una parete. Fece scivolare la mano sul muro ruvido e irregolare. Ormai sapeva di non essere più nell'appartamento di Blake. Il suo svenimento doveva essere durato più a lungo di quanto non si fosse reso conto e, mentre era incosciente, qualcuno doveva averlo trasportato in un altro luogo. Dove e perché? Erano domande che si avrebbero dovuto attendere prima di ottenere una risposta. Le sue mani incontrarono una fessura, la congiunzione tra la parete e una specie di porta. Raggiunse la maniglia e rabbrividì al contatto con il metallo. Era gelido. Ruotò la maniglia ottenendo uno scricchiolio che suscitò echi ben più lontani di quanto si attendesse. La porta si aprì rugginosa verso l'esterno. Le sue pupille, dilatate dalla completa oscurità, vennero ferite dalla caligine che aleggiava oltre la porta. Si guardò intorno. L'ambiente buio dal quale era uscito era all'interno di una stamberga dall'aria abbandonata. Era circondata da enormi alberi scheletrici che incombevano su di essa, disegnando inquietanti caricature di giganti storpi. I colori sembrarono spariti e l'iride era composto solo da tonalità di grigio. Le sue stesse mani, i suoi vestiti erano color cenere, così un fuoco maligno l'avesse bruciato tutto, lasciando solo resti carbonizzati. A un tratto gli parve che un canto si levasse dal profondo del bosco, oscillando tenue come la nebbia bigia che strangolava i tronchi scheletrici. Sì, era un canto. Quando ne prese coscienza si accorse che, fino a quel momento, il silenzio aveva serrato i suoi timpani come il sigillo di un sepolcro. Il bosco sembrava completamente morto, un cimitero che aveva come lapidi le tetre presenze degli alberi. Solo quel canto lugubre ora si levava dalle sue profondità. Sentì l'impulso di andare a vedere chi fossero le persone che cantavano in quella lingua, che non sembrava essere nata per venire pronunciata da voce umana. Come attratto da una droga che sapeva essere letale, ma alla quale non riusciva a rinunciare, si incamminò in direzione della profondità del bosco, lasciando dietro di sé una fila parallela di orme profonde nella cenere fine che ricopriva il terreno. Man mano che il canto prendeva corpo e si dispiegava sopra la sua testa, la sua mente divenne più acutamente cosciente. La malsana melodia fungeva da eccitante, da droga che sembrava avere l'effetto di separare la sua coscienza dal corpo. dal quale perse presto contatto. Gli sembrò di aleggiare a mezza altezza e di essere trasportato dalla musica come da un vento. Quando ormai pensava che il suo viaggio lontano dal corpo non dovesse avere fine, il canto terminò bruscamente e lui si ritrovò sospeso in una radura circondata da tronchi ancora più bizzarri e contorti di quelli che aveva visto fino a quel momento. Lo spazio all'interno sprigionava un male così intenso che gli alberi stessi non avevano trovato il coraggio di invaderlo. Al suo centro, appena distinguibili in un'oscurità fuligginosa, c'erano i primi esseri viventi di cui aveva la percezione, sin da quando si era risvegliato nel bel mezzo di quell'incubo. Una dozzina tra uomini e donne erano immobili e formavano un circolo. Le loro braccia erano allargate, le loro dita si sfioravano appena. Nonostante il canto fosse terminato, le vibrazioni che esso aveva innescato sembravano essere rimaste racchiuse all'interno, oscillando morbose. La massa informe prese ad agitarsi, come una marea che cresceva. Le persone che formavano il circolo si afferrarono le mani per contrastare l'energia che essa sprigionava, come per evitare che potesse fuoriuscire. L'agglomerato informe cominciò ad assumere tonalità diverse dal grigio plumbeo che permeava la scena. Una fiamma cremisi prese forza e consistenza. Turbinò su se stessa, attraendo la massa roteante, fino ad agglomerarla in una sostanza a metà tra il solido e l'etereo. Un essere enorme ora torreggiava sul circolo, fluttuando a qualche metro di altezza, anche se la sua massa sembrava ben più pesante dell'aria che la sorreggeva. Tom ebbe una fugace visione di artigli e di fauci, una mostruosità contorta che non riuscì a mettere a fuoco. Un'enormità di voci esplose nella sua mente, preghiere blasfeme, ringraziamenti alle potere oscure, dichiarazioni di fedeltà a patti osceni. Non capì neppure come potesse comprendere quella lingua, eppure distingueva ogni singola parola, sentiva ogni invocazione, soffriva per ogni empia profferta di sottomissione alle potenze delle tenebre. Tentò di allontanarsi, di riunire la propria coscienza di nuovo con il corpo, del quale non aveva più alcuna percezione. Troppo tardi. Una voce possente, ultraumana, lo invase, facendo tremare come una foglia di un uragano. «Un umano ci spia!» echeggiò la voce dall'essere torreggiante. All'improvviso sentì tutta l'attenzione degli astanti concentrata su di lui. Non i loro occhi spalancati, che continuavano a fissare assorti il demone al centro del circolo, nonostante rischiassero di carbonizzare le proprie pupille a causa dell'energia che esso sprigionava. Era stata la loro percezione che aveva improvvisamente l'aveva scoperto, avvinghiandolo con l'odio che li permeava. Si ritrasse abbacinato dal dolore che gli stavano trasmettendo, allontanandosi come una falena con le ali bruciate dalla fiamma. Si ritrovò all'improvviso nel suo corpo dolente, con gli occhi accecati dalle lacrime e la gola arida per la cenere che saturava l'aria. Cominciò a correre, non sapeva dove si stesse dirigendo, le direzioni sembrano tutte uguali, ma sentiva che doveva andare dalla parte opposta rispetto all'ondata di odio che vibrava nell'aria, che gli ustionava l'anima. Corse, inciampò, ricominciò a correre di nuovo. I rami degli alberi sembravano allungarsi nella sua direzione, quasi ad afferrarlo, certamente a rallentare la sua corsa. Di tanto in tanto si girava per vedere se qualcuno lo stava inseguendo. Nella bruma plumba non riusciva a scorgere nessuno, eppure sentiva che gli erano dietro. L'urto improvviso lo scagliò a terra con violenza. Si era girato una volta di troppo, e un ramo basso lo aveva colpito in pieno volto. Non aveva colto alcun movimento, ma in qualche maniera era sicuro che il ramo non fosse lì un attimo prima. Si rialzò a fatica, sentendo il sapore ferroso del sangue che gli colava denso dal naso sulle labbra e dentro la bocca. Intravide nella penombra una lunga fila di impronte che aveva lasciato arrivando e si mise a seguire correndo senza più girarsi. La Stamberga emerse dall'oscurità come una roccia dal mare in tempesta. Si precipitò verso la porta ancora socchiusa come l'aveva lasciata. Il suono di ruggine fu ancora più spettrale e i cardini opposero maggior resistenza, come se volessero impedirgli di rientrare. Il buio vischioso lo avviluppò quando si chiuse l'uscio alle spalle, tentando inutilmente di serrare il chiavistello, che ora era talmente gelido da non poter essere quasi toccato. «È solo un incubo», tentò di ripetersi senza alcuna convinzione, ma non ci credeva più neppure lui. Doveva trovare il modo per tornare alla realtà. Entrando nella Stamberga si era cacciato in trappola da solo, a meno che non riuscisse velocemente a capire come diavolo fosse finito in quel mondo infernale. Non vedeva nulla. Si mise carponi e cominciò a esplorare il pavimento con le mani. Non sapeva con esattezza cosa cercare, ma qualcosa doveva pure esserci. Riuscì a percepire l'essenza maligna dei suoi inseguitori, avvicinarsi sempre più. Probabilmente erano già usciti dall'oscurità degli alberi e si stavano appressando alla stamberga. Le sue mani incontrarono un oggetto sul pavimento. Passò freneticamente i polpastrelli sulla superficie di pelle ruvida e sfiorò le pagine rugose. Era il libricino che aveva in mano quando era svenuto. L'unico collegamento che aveva con la realtà, la sua realtà. In qualche modo doveva essere arrivato insieme a lui, oppure doveva essere stata la causa stessa del suo incubo. Lo manipolò freneticamente. Nulla, non accadeva nulla. La presenza maligna era ormai fuori dalla porta. Percepiva il loro odio, il male stesso di cui erano intessute. Lanciò un grido strozzato che restituì echi beffardi nella stanza buia. Il sangue aveva ricominciato a colare dal naso, ma lui non aveva più percezione. Aveva capito che ormai era finita. Una goccia di sangue rotolò giù mentre la chinò in avanti, inginocchiato nella posizione della vittima che offriva il proprio capo al carnefice. Finì sulla superficie di una delle pagine della pergamena e ne venne immediatamente assorbita, invisibile nell'ombra. La porta si spalancò e Tom percepì con dolore la presenza dei suoi inseguitori, ma la realtà sembrò scivolare via come sabbia sottile tra le dita, impallidendo fino a sparire. L'ultima cosa che sentì fu un'ondata di odio puro che lo rincorreva fino a quasi annazzannarlo. Poi, più nulla. Thomas Travers si svegliò sentendo il peso enorme delle palpebre gravare sugli occhi. Una forma di profondo torpore gli impediva di sentire i suoi arti e di respirare normalmente. Sentì una mano sollevargli con delicatezza la testa e un polpastrello alzargli una palpebra. L'immagine sfocata di una pupilla riempì il suo campo visivo, mentre la voce di Adrian Bennett gli giungeva da una distanza enorme. «Tom! Tom!» aveva un tono molto preoccupato. «Tutto bene? Ho fatto chiamare un'ambulanza!» «Dove sono?» Si rese conto della stupidità della sua domanda appena l'aveva fatta. Cercò di farsi forza sulle braccia e cominciò con cautela a sollevarsi. La foresta buia, il canto, il demone. «Quanto sono rimasto svenuto?» chiese quando si fu alzato in piedi, sorretto da Bennett che continuava a guardarlo preoccupato. «Solo qualche istante. Quando ho sentito il tonfo della tua caduta mi sono precipitato in uno studio e ti ho trovato svenuto, ma ti sei ripreso subito.» Tom si guardò intorno, faticando a comprendere cosa fosse accaduto. Il ricordo di quel mondo tenebroso e alieno era così vivo in lui che non riusciva a credere di averlo soltanto sognato. Fissò il dito dove si era bucato con il chiodino e istintivamente si portò la mano al naso. Non trovò tracce di sangue, ma gli faceva male, proprio come se l'avesse urtato. Forse era stato un colpo ricevuto nella caduta. Si chinò a raccogliere il libricino. Doveva esserci gli scivolato di mano quando si era accasciato a terra. Lo sfogliò alla ricerca delle due macchie di sangue, almeno della prima, l'unica di cui fosse realmente certo. Nulla, tranne la scritta, che ora campeggiava al centro della prima pagina, nei suoi elaborati caratteri color rubino, rendendo assurda l'ipotesi che potesse non averla vista prima. La prima per la linfa che sgorga ignara. «Credo sia meglio che torni a casa, Tom», disse Bennett. «Posso tenere anche questo libro, oltre al diario di Blake? Vorrei lavorarci un po' sopra questa sera.» «Tom, credo che tu stia prendendo questa faccenda troppo a cuore. Anche qui non è stata trovata nulla, nessuna traccia, e non è stato rubato nulla. Il procuratore distrettuale ha intenzione di classificare la morte di Blake come causata da una malattia sconosciuta. E tu cosa pensi? Chiuderà l'indagine in fretta e furia come vuole il procuratore?» Adrian gli si fece più vicino, gli cinse le spalle. «Credo anch'io che la causa della morte di Blake sia naturale, per quanto sconosciuta. Non è scusa lo stesso male che affligge la nipote di Anna.» «Adrian, ho la sensazione che ci sia molto di più», rispose Tom. «Dammi solo il tempo di capire cosa.» «Va bene», Bennett scrollò le spalle. «Basta che mi firmi una ricevuta e che mi prometti che andrai a casa a riposarti. Vuoi che ti faccia accompagnare da un agente?» «No, no, sto meglio, giuro.» Tom scarabocchiò un foglio e si avviò verso l'uscita, sentendo lo sguardo preoccupato dell'ispettore Bennett gravargli sulle spalle.